Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Anche venerdì non vedevo l'ora che arrivasse la mia amata sera, nella quale soltanto mi sentivo a casa, da quando non avevo più né casa né famiglia. Aspettavo dunque, come di consueto, di abbandonarmi alla sua protezione, che da noi a Vienna era più benevola del silenzio delle notti dopo la chiusura dei caffè, non appena i lampioni intristivano, stanchi del vano risplendere. Agognava nel mattino indolente e il loro stesso estinguersi. Sì, erano sempre stanchi i lampioni sfiniti dalla veglia, che volevano il mattino per potersi addormentare. Ahimè, spesso rammentavo come essi avevano inargentato le notti della mia giovinezza, benigni figli e figlie del cielo, soli e stelle spontaneamente volati giù a illuminare la città di Vienna. Le gonne delle ragazze di piacere arrivavano ancora fino alle caviglie. Quando pioveva, queste dolci creature alzavano le vesti e io vedevo i loro eccitanti stivaletti abbottonati. Allora entravo al Sacher a trovare il mio amico Stenberg. Sedeva nel palchetto, sempre nello stesso. Era l'ultimo cliente. Io passavo a prenderlo. Avremmo dovuto infatti andare a casa insieme, ma eravamo giovani, e giovane era anche la notte, quantunque già avanzata, e giovani erano le ragazze di strada, specialmente quelle in là con gli anni, e giovani erano i lampioni. Passavamo dunque, per così dire, attraverso la nostra propria giovinezza e la notte giovane. Le case nelle quali abitavamo ci sembravano sepolcri, o nel migliore dei casi, asili. Le guardie notturne ci facevano il saluto. Il conte Stenberg dava loro sigarette. Spesso andavamo in pattuglia insieme coi poliziotti, camminando nel mezzo delle strade deserte e squalide, e talvolta ci accompagnava una di quelle dolci creature, e il suo passo era ben diverso che il suo consueto marciapiede. Allora i lampioni erano più radi e anche più modesti, ma siccome erano giovani, brillavano più intensi, e alcuni si cullavano allegri nel vento. Poi, da quando ero tornato dalla guerra, non soltanto più vecchio, ma vecchio decrepito, le notti di Vienna erano piene di rughe e avvizzite, simili a nere donne in là con gli anni, e la sera non si abbandonava in loro come un tempo, ma le schivava, impallidiva e si dileguava prima ancora che sopraggiungessero. Queste sere, frettolose e quasi intimorite, bisognava cercare di afferrarle prima che si accingessero a scomparire, e io le raggiungevo di preferenza nei parchi, nel Volksgarten o al Prater, e il loro ultimo, più dolce residuo, in un certo caffè in cui usavano insinuarsi, morbide e lievi come un profumo. Dunque, anche quella sera, andai al caffè Lindhammer e mi comportai come se non fossi affatto eccitato come gli altri. Non mi consideravo forse da tempo ormai, da quando ero tornato dalla guerra, uno che era vivo per errore? Non mi ero forse abituato ormai da lungo tempo a osservare tutti gli avvenimenti che i giornali definiscono storici con lo sguardo spassionato di uno che non appartiene più a questo mondo? Era già un bel pezzo che la morte mi aveva mandato in congedo a tempo indeterminato, ed essa, la morte, a ogni istante poteva interrompere il mio congedo. Come potevano riguardarmi ancora le cose di questo mondo? Tuttavia, mi preoccupavano, e specialmente quel venerdì. Fu come se si trattasse di decidere se io, un pensionato dalla vita, potevo continuare a consumare in pace la mia pensione, come fino allora, in una pace amara. O se anche questa mi doveva essere tolta, questa povera pace amara. La rinuncia, si potrebbe dire, che io ero avvezzo a chiamare pace. Cosicché, spesso negli ultimi anni, quando l'uno o l'altro dei miei amici veniva da me per dirmi che era finalmente arrivato il momento che io mi occupassi della storia del nostro paese, dicevo, certo, la solita frase, lasciatemi in pace. Ma sapevo benissimo che in realtà avrei dovuto dire, lasciatemi alla mia rinuncia. La mia cara rinuncia. Anche quella adesso è perduta. Ha preso la via dei miei desideri rimasti inappagati. Andai dunque a sedermi al caffè e mentre gli amici al mio tavolo continuavano a parlare delle loro faccende private, io che per un destino non meno inesorabile che clemente vedevo esclusa ogni possibilità di un mio interesse privato, sentivo ormai solo quello generale, che in vita mia mi era importato così poco, che in vita mia ero stato solito sfuggire. Erano settimane ormai che non leggevo più un giornale e i discorsi dei miei amici, che sembravano vivere dei giornali, addirittura essere tenuti in vita da notizie e dicerie, erano al mio orecchio un mormorio fuggevole che lasciava il tempo che trovava, come le onde del Danubio se qualche volta restavo seduto sul lungo fiume Franz Josef o sulla Elisabeth Promenade. Io ero escluso. Escluso ero. Escluso in mezzo ai vivi significa qualcosa come extraterritoriale. Ero appunto un extraterritoriale in mezzo ai vivi. E anche l'eccitazione dei miei amici, quello stesso venerdì sera, mi sembrò di troppo, fino al momento in cui la porta del caffè fu spalancata e sulla soglia apparve un giovane stranamente abbigliato. Portava gambali neri di cuoio, una camicia bianca e un tipo di berretto militare che mi faceva pensare insieme a un vaso da notte e a una caricatura dei nostri vecchi berretti austriaci. Insomma, non era neanche un copricapo prussiano, perché i prussiani non portano in testa né cappelli né berretti, bensì copricapi. Io, lontano dal mondo e dall'inferno che per me rappresentava, non ero affatto idoneo a distinguere i nuovi berretti e le nuove uniformi, tantomeno a riconoscerli. Ci potevano essere camicie bianche, azzurre, verdi e rosse, calzoni neri, marroni, verdi, azzurro lacca, stivali e speroni, foderi e cinghie e cinture, pugnali, inguaine di ogni tipo. Io, ad ogni buon conto, io avevo deciso, per quanto mi riguardava, da tempo ormai, fin da quando ero tornato dalla guerra, di non distinguerli e di non riconoscerli. Perciò, sulle prime, fui più sorpreso dei miei amici per l'apparizione di questa figura, che era come salita dalla toeletta giù nello scantinato e che invece era entrata dalla porta di strada. Per qualche secondo avevo realmente creduto che la toeletta dello scantinato, a me pur ben nota, a un tratto si trovasse fuori e che uno degli inservienti fosse entrato per annunciarci che tutti i posti erano già occupati. Ma l'uomo disse: «Compatrioti, il governo è caduto. Abbiamo un nuovo governo popolare tedesco». Da quando ero rimpatriato dalla guerra mondiale, rimpatriato in un paese pieno di rughe, mai avevo avuto fiducia in un governo. Figuriamoci poi in un governo popolare. Io appartengo ancora oggi a un mondo palesemente tramontato, nel quale pareva naturale che un popolo venisse governato e che dunque, se non voleva cessare di essere popolo, non poteva governarsi da solo. Ai miei orecchi sordi, spesso avevo sentito che li chiamavano reazionari, suonò come se una donna amata mi avesse detto che non aveva affatto bisogno di me, che poteva fare l'amore con sé sola e che anzi doveva farlo, e in vero al solo scopo di avere un bambino. Proprio per questo mi sorprese lo spavento che colse tutti i miei amici all'arrivo dell'uomo bizzarramente calzato e al suo bizzarro annuncio. Avevamo a stento occupato fra noi tutti tre tavoli. Un attimo dopo restai, anzi, mi trovai solo. Mi trovai effettivamente solo e per un secondo Fu come se da molto tempo io fossi andato effettivamente in cerca di me stesso e mi fossi trovato, con sorpresa, solo. Tutti i miei amici, difatti, si alzarono dai loro posti e invece di dirmi prima buonanotte, come da anni era stata consuetudine fra noi, gridarono «Cameriere, il conto!» Ma siccome il nostro cameriere Franz non veniva, gridarono, rivolti al proprietario ebreo Adolf Feldman, «Paghiamo domani!» e se ne andarono, senza neanche guardarmi più in faccia. Io ero ancora convinto che l'indomani sarebbero veramente tornati a pagare e che il cameriere Franz fosse al momento trattenuto in cucina o da qualche altra parte e che unicamente per questo non fosse stato così svelto a comparire come al solito. Dopo 10 minuti, però, il proprietario Adolf Feldman spuntò da dietro il suo banco col pastrano e la bombetta in testa e mi disse: «Signor barone, ci diciamo addio per sempre. Se mai ci dovessimo rivedere in qualche parte del mondo, ci riconosceremo. Domani, di certo, lei non tornerà più qui, voglio dire, a causa del nuovo governo popolare tedesco. Lei va a casa o pensa di restare qui seduto?» «Io resto qui, come tutte le sere», risposi. «Allora addio, signor barone. Io spengo le lampade. Ecco, qui ci sono 2 candele». E detto questo, accese 2 smonte candele. E prima ancora che io mi potessi rendere conto dell'impressione che mi faceva, poiché erano dei ceri da morto che mi aveva acceso, tutte le luci nel caffè erano spente, ed egli, pallido, con una bombetta nera in testa, piuttosto un becchino che l'ebreo gioviale Adolf Feldman dalla barba d'argento, mi porse una massiccia croce uncinata di piombo e disse: «Per ogni evenienza, signor barone, continui pure a bere tranquillamente la sua grappa. Io lascio chiusa la sala cinesca e quando lei vuole andare la può aprire dall'interno. La pertica è accanto alla porta, a destra». «Vorrei pagare», dissi. «Oggi non è il momento», rispose. Ed era già sparito. E già sentivo rotolare giù la sala cinesca davanti alla porta. Thank you. Così mi ritrovai solo al tavolino davanti alle due candele. Si erano appiccicate al finto marmo e mi lamentavano dei vermi bianchi, eretti e accesi. Mi aspettavo che da un momento all'altro si incurvassero, come del resto si addice a dei vermi. Cominciavo a sentirmi inquieto e allora chiamai «Franzi, il conto!» come sempre ogni sera. Ma non venne il cameriere Franz, bensì il cane da guardia, che si chiamava Franz anche lui e che io in verità non avevo mai potuto soffrire. Era di colore giallo sabbia e aveva gli occhi cisposi e il muso bavoso. Io non amo le bestie e ancor meno quelle persone che amano le bestie. In tutta la mia vita mi è sembrato che le persone che amano le bestie sottraggano una parte dell'amore agli uomini. E particolarmente giustificato mi è apparso il mio punto di vista quando per caso ho saputo che i tedeschi del Terzo Reich amano i cani lupo, i cani da pastore tedeschi. Povere pecore, mi dissi a quel punto. Ecco ora il cane Franz che veniva verso di me. Quantunque fossi suo nemico, mi sfregava il muso contro i ginocchi e mi chiedeva quasi perdono. Intanto i ceri bruciavano, i ceri da morto, i miei ceri da morto. E dalla chiesa di San Pietro non giungeva il suono delle campane. E io non ho mai un orologio con me e non sapevo che ora fosse. «Franz, il conto!» dissi al cane. E lui mi saltò in grembo. Presi un pezzetto di zucchero e glielo porsi. Non lo prese. Si limitò a guaire e subito dopo mi leccò la mano dalla quale non aveva accolto il dono. Spensi ora una candela. L'altra la staccai dal finto marmo e andai alla porta e con la pertica alzai la saracinesca dall'interno. In realtà volevo sfuggire al cane e al suo amore. Quando uscii sulla strada, la pertica in mano per tirare giù di nuovo la saracinesca, vidi che il cane Franz non mi aveva lasciato. Mi seguiva. Non poteva restare. Era un cane vecchio. Come minimo aveva servito il caffè Lindhammer per 10 anni, come io l'imperatore Francesco Giuseppe. E ora non poteva più farlo. Ora nessuno di noi due poteva più farlo. «Il conto, Franz», dissi al cane. Mi rispose con un guaito. L'alba spuntava su quelle croci totalmente estranee. Trascorreva un vento leggero e faceva dondolare i vecchi lampioni che ancora non si erano spenti, non questa notte. Camminavo per strade deserte con un cane sconosciuto. Era deciso a seguirmi. Dove? Io non ne sapevo quanto lui. La cripta dei Cappuccini, dove giacciono i miei imperatori, sepolti in sarcofaghi di pietra, era chiusa. Il frate Cappuccino mi venne incontro e chiese «Che cosa desidera?» «Voglio visitare il sarcofago del mio imperatore Francesco Giuseppe», risposi. «Dio la benedica», disse il frate, e fece sopra di me il segno della croce. «Dio conservi!» gridai. «Zitto!» disse il frate. «Dove devo andare?» «Ora io, un trotta!» Thank you. Buongiorno, sono Stefano Gallerani. Come abbiamo ascoltato dalla voce di Luciano Virgilio, in un certo senso letto nelle sue parole, la scrittura di Joseph Roth partecipa della storia, la storia con la maiuscola, in una maniera integrale, osmotica, realizzando una perfettamente compiuta corrispondenza tra fatti storici, appunto, e vicende narrate. Ma tale partecipazione non produce mai, sulla pagina, una prevaricazione del dato cronologico, dell'elemento storico in senso proprio su quello esistenziale. Sulla peculiare qualità narrativa del ritratto di un'epoca che Roth dipinge con segno lieve ed incisivo ad un tempo. Pur alimentandosi della storia, cioè, il Roth scrittore non abdica mai in favore del Roth testimone, mero cronista di fatti mondani e politici, ma mantiene sempre il controllo su una materia incandescente, risolvendola a freddo in una chiave stilistica libera da impedimenti e scevra da investimenti teorici o programmatici. Al fondo della questione è questo il tratto maggiormente distintivo tra Roth e alcuni dei suoi celebri contemporanei, quali ad esempio Robert Musil o Herman Brock. Nella sua estetica, infatti, cioè nella sua convinzione, nella sua dedizione alla scrittura come testimonianza di una vita, ultima custode della nostra immagine più vera, quella che la nostra coscienza ci restituisce e restituisce al caso, dopo essere stata visitata e straziata da frammenti di memoria, da brandelli di ricordi, la cornice, anche se probabilmente non è corretto definirla tale, della parabola discendente dell'impero austro-ungarico si muta in agente reattivo. Funge da stimolo per un viaggio nell'essenza dell'animo umano, disvelandone le debolezze, le fatuità, la caducità soprattutto dei principi su cui poggia la sua, peraltro spesso fallace, morale. Nella carriera di Francesco Ferdinando Trotta, e diversamente da quanto aveva fatto pochi anni prima nella Marcia di Radeschi, ma in un certo senso anche riallacciandosi al tema di quella narrazione ci raccontava la storia della famiglia Trotta, Roth descrive un fenomeno che non è più solo storico, e lo fa poi con una leggerezza pari forse solo all'acume con cui ci restituisce il senso di una perdita, di una condizione trasparente eppure impossibile da mantenere. Sono questi, in fondo, i tratti che sovvertono l'immagine comune di Roth e che culminano nella leggenda del Santo Bevitore, questo breve racconto, quasi una margine della milleduesima notte, pubblicato pochi mesi dopo la morte di Roth, nel 1939, e che può essere considerato il suo testamento spirituale. Un'opera di Roth che, seppur minore nella mole e nel respiro, rispetto ai suoi affreschi più celebri, ce ne consegna la qualità di scrittore minore sì, ma in un senso questa volta diverso, minore nel senso che Deleuze attribuiva all'aggettivo. Cioè Roth ci si mostra come uno scrittore in cui il passato non è ormai nulla più che un'illusione. Uno scrittore senza un avvenire davanti a sé, intempestivo, così come è intempestivo il clochard Andreas Kartak, e perciò solo tutto in divenire. Uno scrittore che non interpreta l'uomo nel tempo, ma, come farà poi anche Camus ad esempio, e con lui i maggiori scrittori del Novecento, fa dipendere il tempo dall'uomo. Thank you. Luciano Virgilio ha letto La cripta dei cappuccini di Josef Roth, traduzione di Laura Terreni per Edizioni Adelphi. Postfazione di Stefano Gallerani, regia di Anna Antonelli. Riduzione di Giovanni Pallanti, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello, chiocciolarai.it.